in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Questa settimana inizio, come sempre, da Vox Europe, che è il sito che, sapete, io amo molto perché fa un lavoro davvero capillare di ricerca di articoli dai giornali internazionali e di traduzione anche dalle lingue meno facili. In questo caso però oggi è una lingua non proprio difficilissima, che peraltro non tutti conoscono, che è il francese. L'articolo è tratto da Alternative Economique, ma è il tema che è particolarmente interessante, perché l'articolo si intitola Prima infanzia, anche in Europa la parità comincia dal nido. L'illustrazione è un orsacchiotto sopra a un asilo evidentemente tedesco, ma in realtà anche spesso nei paesi anglofoni viene usato questo termine, che è un termine tedesco, che è Kindergarten, letteralmente giardino d'infanzia, cioè asilo in italiano. Ma il tema è interessante. Sappiamo che in Italia spesso sono i nonni a supplire alle carenze di asili nido o di asili in generale, e non succede soltanto in Italia, anche se poi, come sappiamo, da noi questa, rispetto per l'appunto alla Francia, il problema è molto più grave e più difficile da risolvere. Vi leggo una parte di questo articolo e il sommario è: asili nido o nonni? I modi di custodia dei bambini in età prescolare variano molto a seconda dei paesi, con conseguenze importanti sulla parità tra i sessi. Scrive Xavier Molena: investire nell'infanzia è positivo per la società nel suo insieme. Fin dai primi anni 2000 le istituzioni europee continuano a ribadire questo concetto, fondato su un largo consenso scientifico. La creazione di posti per i bambini più piccoli in strutture collettive, asili nido, giardini d'infanzia e così via, o di prescolarizzazione, è ritenuta avere tre grandi vantaggi. Prima di tutto è favorevole all'uguaglianza tra donne e uomini, contribuendo a liberare le prime, le donne, dai compiti parentali alle quali sono spesso destinate. Secondo, queste politiche sono strumento efficace di lotta contro la povertà, permettendo, anche in questo caso alle donne, in particolare a quelle meno qualificate, di non allontanarsi dal mercato del lavoro ed eventualmente di fare carriera. Terzo motivo, questi strumenti possono contribuire a lottare contro le difficoltà di apprendimento e le diseguaglianze scolastiche. E poi c'è appunto una disamina di come si articola nei vari paesi dell'Unione Europea e non solo la scolarizzazione, potremmo chiamarla così, dei bambini, diciamo, proprio dall'asilo nido, quindi magari anche da quando non hanno nemmeno un anno di età. E ve lo segnalo davvero, questo articolo lo trovate tutto su voxeurope.eu ed è molto interessante. Vi segnalo l'ultima parte, un po' le conclusioni. I fattori istituzionali hanno molta importanza nell'estensione e nell'efficienza delle politiche per la prima infanzia, si legge in questo articolo di Alternative Economique. I sistemi più efficaci sono spesso unificati e i bambini evolvono in un sistema istituzionale integrato dalla loro nascita fino ai 6 anni. Ma oltre alla già citata Germania, solo 7 paesi hanno instaurato il diritto legale alla custodia dei bambini più piccoli da parte di istituzioni pubbliche: Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Estonia, Slovenia e Malta. Di fatto, oltre all'investimento finanziario che rappresenta, lo sviluppo dei servizi di accoglienza per la prima infanzia presuppone scelte politiche forti che non tutti i paesi europei sono pronti ad assumersi. E tutto sommato ci possiamo anche ricollegare all'Italia e a quell'episodio a metà tra il ridicolo e il grottesco di una legge che impediva alle scuole di lasciare andare da soli a casa gli allievi delle medie. C'è voluto una correzione addirittura nella finanziaria per appunto supplire a questa svista, che potremmo dire, speriamo sia stata una svista di questa legge. Bene, cambiamo completamente argomento. Non potevo non fare una piccola citazione sulle reazioni che ci sono state in tutto il mondo alla sconfitta dell'Italia con la Svezia e lunedì scorso, e alla conseguente, come sappiamo tutti, impossibilità di partecipare ai prossimi mondiali di calcio, la prima volta che succede dal 1958, e da qui vi lascio immaginare. Ciao Italia, in italiano, l'Equipe, il più famoso quotidiano francese, siamo fuori, questo è El di Olé, un quotidiano spagnolo di sport, e O Apocalipse, questo è un quotidiano portoghese, e scusate se rido, ma perché secondo me bisogna un po' sdrammatizzarla questa vicenda. In ogni caso vi do anche altre due indicazioni invece su quotidiani non necessariamente sportivi. Le Figaro scrive del triste addio di Buffon, mostro sacro del calcio italiano. Anche Mundo Deportivo ha reso omaggio al portiere della nazionale della Juventus, e El País invece ha sottolineato che in Italia si chiede fuori tutti. Poi sappiamo come è andata a finire, che fuori tutti non esattamente. Restiamo un attimo in Spagna per un piccolo aggiornamento sulla crisi catalana. Sapete che siamo ancora tutti, gli spagnoli per primi naturalmente, in attesa di capire come si potrebbe risolvere questa crisi. Intanto El País tiene d'occhio gli umori degli elettori e scrive per esempio che la crisi catalana e la sensibile crescita del nazionalismo spagnolo che ha innescato che c'è stato e che è sfociato soprattutto nella crisi catalana, ma che e quello addirittura è un nazionalismo, potremmo dire regionalista, o un regionalismo nazionalista. In ogni caso, se si votasse ora, stando al sondaggio di El País, il partito di Ciudadanos salirebbe al 10,1%, dal 10,1% delle politiche dell'anno scorso dal 18,6% del sondaggio di ottobre al 22,7%, sarebbe al secondo posto, alla pari con il PSOE, il partito di centrosinistra. Vi segnalo un articolo interessantissimo, secondo me, e che ancora una volta ci riporta in un certo senso in Italia, in quello che anche c'è di molto buono in Italia, che secondo me resta, come dico spesso, la sanità pubblica che dobbiamo cercare di salvare, anche se sicuramente ci sono delle storture, degli sprechi e delle ingiustizie. Però in Italia sappiamo, quando si guardano poi le classifiche, l'Italia è comunque sempre ai primi posti per la sanità pubblica. Quello che scrive Atul Gawande sul New Yorker, e che viene pubblicato da Internazionale, tradotto e pubblicato da Internazionale, che ne ha fatto anche la copertina del numero della scorsa settimana, è un articolo che si intitola "Il medico che ti può salvare la vita". La medicina d'emergenza e quella specialistica sono fondamentali, ma è il rapporto prolungato tra medici di base e pazienti che fa davvero la differenza. Atul Gawande è un medico, ma è anche un eccellente divulgatore. Qualche anno fa era uscito un suo bellissimo libro che si chiamava The Checklist, dove spiegava come i medici e altre persone che lavorano in situazioni dove sbagliare può avere delle conseguenze gravissime per le vite umane, ad esempio i piloti degli aerei. E oltre a questo libro si occupa, scrive sul New Yorker spesso di temi medici. E quello che appunto mi sembra davvero interessante di questa cosa è che certo gli specialisti, i medici che guardano una sola, magari un sintomo e cercano di curarlo, sono utilissimi appunto nei casi di emergenza, ma quello che veramente può dare un medico che ci ha in cura da tantissimo tempo e quindi può collegare varie malattie tra loro in un quadro generale, anche quello può essere una cosa che spesso può salvare la vita. E perché dico l'Italia? Perché non tanti paesi hanno il sistema di medici di base che abbiamo noi, e che però come credo chiunque di voi parli, abbia un rapporto di fiducia col proprio medico di base, e magari in questo caso il medico si apre con il paziente, a quante frustrazioni sono andati incontro negli ultimi anni. Vi leggo l'ultima parte di questo articolo, che è molto lungo, ma conclude Atul Gawande: dobbiamo riscoprire l'eroismo della medicina incrementale, cioè quella che appunto di quei medici che riescono a accumulare e quindi incrementare le conoscenze sui loro pazienti. Non solo dovremmo aumentare gli sforzi per garantire che tutti abbiano un'assicurazione sanitaria. Ricordiamo che Atul Gawande è cittadino di un paese dove la sanità pubblica praticamente non esiste e bisogna avere un'assicurazione sanitaria, gli Stati Uniti. Dobbiamo accelerare il lavoro cominciato con l'Obamacare e cambiare il modo in cui spendiamo per l'assistenza. La decisione fondamentale che dobbiamo prendere riguarda cosa è giusto e cosa è sbagliato. Possiamo rinunciare a una serie di priorità superate e spostare l'attenzione dalla medicina eroica a quella che si occupa delle persone per tutta la vita. Oppure possiamo lasciare che milioni di esseri umani soffrano e muoiano a causa di malattie che sono sempre più prevedibili e curabili. Non è solo una scelta politica, è un'emergenza medica. A proposito di emergenze mediche, un altro articolo pubblicato da New Scientist che si intitola "Come stanno i nostri adolescenti?" E purtroppo scopriamo che c'è un aumento dei disturbi mentali nell'adolescenza ed è sì, certo, i dati dicono questo, la realtà però è più complessa perché è difficile aiutare chi ha davvero bisogno d'aiuto. Credo che noi tutti siamo stati adolescenti, probabilmente tanti ascoltatori e ascoltatrici hanno figli adolescenti, c'è un problema comunque di comunicazione in quel periodo della vita e quindi non è soltanto difficile individuare i casi ma anche capire come aiutare le persone, in particolare in questo caso gli adolescenti che hanno questo tipo di problema, che poi sotto il cappello disturbo mentale può andare qualsiasi cosa. Ultimissima segnalazione da 1843, il trimestrale dell'Economist, in copertina c'è Angelina Jolie che parla di una delle sue, dei suoi tanti impegni umanitari, che è quello per la crisi che ancora c'è in Cambogia, dove esistono ancora disuguaglianze e sacche di povertà che credo noi non riusciamo nemmeno a immaginare. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.